Ora, per dire, Manuel Carrer l'anno scorso era finalista al premio, quest'anno viene come ospite, fa la Lectio Magistralis. E dopo il grandissimo successo di Limonov, lo ricordiamo, sì, di 2 o 3 anni fa, era stato veramente un caso editoriale, ma poi ha pubblicato tanti altri romanzi, L'avversario, adesso ne è uscito proprio l'ultimo per Adelphi, anche se in realtà lui l'aveva scritto parecchi anni fa, ma in Italia è stato ripubblicato solo ora. Che tipo di incontri ci sono fra questi grandi scrittori e il pubblico? Che tipo di interazione c'è? Dunque, praticamente noi mettiamo in piedi ogni volta una conversazione che parta dal libro dello scrittore per arrivare a temi più generali della letteratura, ma la conversazione avviene con, come dire, degli equivalenti italiani, no? cioè degli scrittori che abbiano più o meno per età e per quello che si diceva prima, anche per ricerca, eccetera, un po' la stessa, diciamo, ci fosse una certa somiglianza. Fra i vari incontri ci sarà l'anteprima nazionale dell'ultimo romanzo di Jonathan Lydem, I giardini dei dissidenti, ma sì, c'è un incontro, per esempio, che mi ha colpito molto, venerdì 13 giugno, balconata di Palazzo Strozzi, che solo questo varrebbe la pena, The Dreamers, trasformare le parole in visioni, incontro con Bernardo Bertolucci, Emmanuel Carrère, Michael Cunningham e Volker Schlondorf. Che è colui che ha vinto con il tamburo di latta l'Oscar. Poi una cosa che va detta è che tutto questo avviene nell'anno del centenario di Gregor von Rezzori. Ecco, diciamo 2 parole su von Rezzori, perché magari non tutti lo ricordano. Allora, von Rezzori era uno scrittore, come dire, dell'area mitteleuropea, nato nel pieno cuore dell'Europa, Chernowitz. Ha scritto dei libri che sono stati libri fondativi, diciamo, di questa cultura, come per esempio Diario di un antisemita, no? Che è stato un libro epocale. Dopo aver scritto moltissimi libri e vissuto una vita da nomade anche molto in giro per il mondo, e si è stabilito in Toscana sposando Beatrice Monti della Corte. In questo posto meraviglioso dove loro hanno vissuto tutta la vita, che è vicino a Firenze, è nato poi un centro di ritrovo, diciamo, di accoglienza per gli intellettuali, scrittori internazionali. Naturalmente gli italiani non possono andarci e si contendono la torre di Bruce Chatwin, perché in questo posto veramente magico c'è questa torre dove appunto stava Bruce Chatwin, dove si narra che abbia scritto molti libri e dove anche Michael Cunningham, Andrew Sean Greer, eccetera. Anche l'ultimo libro che vedrete in libreria dal 25 di giugno di Michael Cunningham, La regina della neve, narra nell'ultima pagina che ha iniziato a scriverlo in questo luogo fantastico. Alba, diamo un po' di informazioni proprio pratiche. Chi volesse partecipare, chi volesse assistere a questi incontri, c'è un sito internet, un riferimento particolare? Sì, dunque c'è il sito del nostro, cioè www.davisfranceschini.it. Grazie allora ad Alba Donati, responsabile della direzione artistica di questo Festival degli Scrittori, ve lo ricordo, a Firenze il prossimo fine settimana, cioè da giovedì 12 a sabato 14 giugno. Ci sarà anche la consegna del premio Gregor von Rezzori, insomma un'ottima occasione per parlare, per chiacchierare, insomma, con scrittori internazionali decisamente di livello. È partito il conto alla rovescia per i mondiali di calcio. In libreria è una vera esplosione di libri che parlano non solo dei mondiali, ma del calcio in genere. Ci sono i libri cosiddetti manuali, cosiddetti quelli della varia, per intenderci, che danno anche informazioni pratiche, ma ci sono anche romanzi ispirati dal calcio, vera e propria fiction. Partiamo con il libro ufficiale di questi mondiali, 2014 FIFA World Cup, appunto il libro ufficiale pubblicato da Mondadori. Che cosa ci trovate dentro? Profili dei giocatori, analisi delle squadre, tabellone del torneo, naturalmente mappa dei luoghi, storia della FIFA World Cup, dati statistici e foto. Fra una partita e l'altra, insomma, si può leggere e commentare. Ha uno sfondo storico, diciamo, su tutta la storia appunto dei mondiali, il libro di Stefano Marelli, che si intitola Pezzi da 90, storie mondiali, pubblicato da Rubbettino, che è un piccolo editore calabrese che fa libri di grande qualità. Ci sono, come dire, storie verosimili, ci sono personaggi come Omar Sivori, Roberto Baggio, l'autore immagina quello che possono aver pensato durante determinate partite dei mondiali, quindi c'è l'Uruguay del 1930, Svezia 58, Cile 62, insomma ci sono tutti gli anni anni del Mondiale dal 1930 in poi. Pezzi da 90, Stefano Marelli. Pura fiction, assolutamente pura invenzione per il romanzo Vendetta ai Mondiali di Paolo Foschi, pubblicato da EO. È il ritorno del commissario Attila. Il commissario Igor Attila, già personaggio seriale di Paolo Foschi, torna appunto per indagare su un attentato che viene compiuto alla vigilia appunto dei mondiali di calcio in Brasile e che sconvolge la nostra nazionale. Insomma, fate tutti gli scongiuri del caso, naturalmente, è pura fiction, lo ripetiamo. Il commissario Attila, ex pugile professionista, fa parte della sezione crimini sportivi della polizia e deve indagare su questo spietato killer che trama contro la nazionale degli azzurri. Vendetta ai mondiali, pubblicato da EO. Ancora uno sguardo storico per L'Atlante dei Mondiali, a cura di Massimo Coppola, pubblicato da ISBN Edizioni. 22 autori raccontano 20 coppe del mondo dal 1930 al 2014. Sono giornalisti sportivi e scrittori del panorama italiano, scrittori come Giancarlo De Cataldo o Mario Desiati. Poi ci sono ex calciatori come Gigi Riva. Attraverso varie prospettive, vari punti di vista, questi autori ripercorrono le 20 edizioni del Mondiale dal 1930 in poi, raccontando incontri, calciatori e vicende memorabili. L'Atlante dei Mondiali, pubblicato da ISBN. Giochiamo in casa, è proprio il caso di dirlo questa volta, con Il Mondiale e un'altra cosa, la Coppa del Mondo raccontata dagli azzurri, pubblicato da Bompiani. Perché dico giochiamo in casa? Perché uno degli autori è Franco D'Assisti, che è anche uno dei conduttori di Radio 24, e l'ha scritto insieme a un altro giornalista, Massimo Rota, due giornalisti che nella vita professionale non si occupano di calcio, ma in realtà sono molto molto appassionati. Che cosa hanno fatto? Hanno incontrato vari giocatori, anche allenatori di calcio, e si sono fatti raccontare quella partita di quel mondiale che loro hanno vissuto dal punto di vista di chi si trovava nel campo di gioco. Quindi non so, ci sono i racconti di Bolinsegna, Mazzola, Collovati, Bergomi, Albertini, Rino Gattuso, Zambrotta, che sono stati appunto rielaborati dai due giornalisti, ma sulle testimonianze vere di questi giocatori. E poi ci sono alla fine una sorta di 90 punti sul calcio, cioè sono aneddoti, personaggi, libri e film, figurine del dizionario mondiale del 1930 a oggi. Raccontato in prima persona dunque dai calciatori, Il Mondiale è un'altra cosa, la Coppa del Mondo raccontata dagli azzurri, a cura di Massimo Rota e Franco D'Assisti. Oltre ai libri strettamente sui mondiali di calcio, stanno arrivando in libreria anche libri che comunque parlano e raccontano di questo sport. Uno è stato pubblicato da Sellerio e si intitola La partita di pallone, storie di calcio. Ci sono da Vasco Pratolini a Gianni Brera che parlano di calcio, da Manuel Vasquez Montalbana a Vittorio Sermonti, vabbè, da Osvaldo Soriano, inutile dirlo, su questo possiamo leggere l'opera Omnia di Osvaldo Soriano, che in Italia è pubblicata da Einaudi per quanto riguarda il calcio, a Mario Soldati, poi c'è Stefano Beni e altri, Nick Orbi addirittura, che parlano appunto di calcio. Nick Orbi, lo ricordiamo, è l'autore inglese che ha scritto Febbre a 90, quindi anche lui di calcio è abbastanza malato, diciamo così. Il libro si intitola La partita di pallone, storie di calcio, pubblicato da Sellerio. C'è una casa editrice che è specializzata proprio in romanzi che parlano di sport e si chiama 66 and the Second. È una casa editrice piccola, italiana, relativamente giovane, nata qualche anno fa. E in questi giorni hanno pubblicato Un giorno triste così felice, scritto da Lorenzo Iervolino, ed è la storia di Socrates, il calciatore brasiliano che concepiva il calcio più come divertimento che come professione. Da PM arriva invece la biografia di Lionel Messi, che si intitola Pulce, scritto da Guglielmo Balaghe. Insomma, la storia di Messi è una storia affascinante, al di là dell'aspetto sportivo. Insomma, è un libro che comunque parla della vita anche umana di questo calciatore. Lo sappiamo, la sua storia: era nato molto gracilino, era un bambino con seri problemi di salute. Insomma, nessuno avrebbe scommesso su di lui come calciatore in Argentina. Poi si è trasferito a Barcellona e sotto la spinta del padre e di altre persone che lo hanno seguito è diventato il grande calciatore che è oggi. Il libro si sentito la pulce, appunto perché veniva soprannominato, non sempre in senso buono, la pulce o il nanerottolo, proprio perché aveva questa costituzione gracile. E poi il classicone dei classiconi, insomma, Osvaldo Soriano l'ho già citato, però mi piace citare anche e ricordare La vita è un pallone rotondo, scritto da Vladimir Dmitrievich e pubblicato da Adelphi. Era un calciatore negli anni 50 che poi era fuggito dalla Jugoslavia proprio grazie al calcio ed era diventato un editore indipendente in Svizzera. E non dimentichiamo i più piccoli, i bambini, perché anche per loro ci sono dei libri dedicati in particolar modo al mondiale di calcio brasiliano. Allora c'è questa collana di libri che si intitola Super Goal, che viene pubblicata nella collana Il battello a vapore di PM, e ne esce uno all'anno sostanzialmente di questi libri. Parla di una squadra di calcio di ragazzi e stavolta c'è il numero speciale che esce da martedì, non è ancora in libreria, e si intitola Super Goal, campioni del mondo in Brasile, scritto da Luigi Garlando. Questo è il settimo volume e contiene l'esclusiva intervista a Prandelli, quindi c'è anche un'intervista al CT della Nazionale. Per le bambine tifose di calcio, una proposta sempre del battello a vapore, che cinque amiche in campo di Thea Stilton, il calcio femminile, lo sport più amato dagli italiani, appunto, dedicato in questo caso alle Thea Sister. Entrambi i libri, questo si può leggere dai 6 anni in su, e i campioni del mondo in Brasile dagli 8 anni in su. Se vi siete persi naturalmente qualche titolo, potete andare su radio24.it e trovare la registrazione di questa puntata. Anche per oggi è tutto, vi ringrazio per l'ascolto. In regia c'è stata Valeria Bernardi, tifosa della Roma, ma credo seguirà anche lei i mondiali di calcio quest'anno. Noi come sempre ci risentiamo sabato prossimo, versione breve alle 6:45 per i mattinieri e alle 22:05. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.